Respiro. Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. La settimana scorsa abbiamo parlato di polveri sottili, abbiamo ricevuto moltissime vostre segnalazioni, indicazioni, timori, arrabbiature, ma anche voglia di capirci di più. L'Italia, come sappiamo, è indietro rispetto ai parametri richiesti dalla Commissione e con l'Italia quasi tutti i paesi dell'Unione. Perché? Cosa sta andando e cosa invece non riesce proprio a decollare? Ad esempio, non funziona in Italia il Mobility Manager, una figura che avrebbe molto peso nella risoluzione del problema della mobilità, del traffico e soprattutto delle emissioni di polveri sottili. Ce lo ha detto Roberto Caracciolo, capo dipartimento ambientale dell'ISPRA, in questa lunga intervista. Partiamo dal fatto che le polveri sottili sono un problema complesso da affrontare perché hanno una natura abbastanza particolare, non sono una sostanza singola come altri inquinanti, come possono essere gli ossidi d'azoto, gli ossidi di zolfo, e quindi è un problema complesso. Non è solo l'Italia che si trova in una certa situazione, ci sono altri paesi, ci sono altri 10 paesi che non hanno rispettato quelli che sono gli obiettivi fissati da una specifica direttiva comunitaria in materia di inquinamento atmosferico. Per cui diciamo, sia i limiti, i valori annuali dei 40 microgrammi al metro cubo come valore medio annuale è stato superato, sia il numero di superamenti consentiti del valore di concentrazione giornaliera, che era consentito solo 35 giorni, è stato superato in questi paesi. Che cosa è stato fatto? Sono state messe in atto una serie di iniziative, io adesso parlo ovviamente dell'Italia, che riguardano diversi settori. Delle iniziative sono state assunte, ma evidentemente queste iniziative non sono state sufficienti, tant'è che siamo andati in infrazione, anche se adesso c'è una possibilità di avere una deroga che verrebbe concessa per ulteriori 3 anni per fare in modo che questi obiettivi, invece che essere raggiunti come dovevano essere nel 2005, possano essere raggiunti nel 2011. E quindi dicevo, ci sono dei settori in cui già c'è un intervento, diciamo, abbastanza accurato e mirato, e si può fare poco. Allora, è stato fatto uno studio in particolare dall'ISPRA insieme all'Enea per vedere quali sono ancora i settori in cui è possibile diciamo, fare degli ulteriori interventi, ovviamente attraverso la collaborazione poi dei ministeri principalmente coinvolti, come quello dell'agricoltura, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e ovviamente anche delle regioni. E si è visto da questo studio che nell'area padana i principali settori dove ancora è possibile introdurre delle iniziative atte a ridurre le emissioni di particolato sono il settore agrozootecnico e quello dei trasporti. Mentre nel Mezzogiorno e nel Centro Italia i settori in cui si può ancora intervenire sono in parte quello industriale e in parte quello ancora dei trasporti. Tra le misure che sono state prese in considerazione ne citerò alcune, per esempio degli interventi sui limiti di velocità, soprattutto quindi in prossimità dei centri urbani, un intervento sul parco veicolare, non quello diciamo su cui ormai abbiamo una serie di interventi, sappiamo, per lo svecchiamento e quindi per diciamo, favorire l'introduzione di veicoli a più basse emissioni, ma un intervento anche sui cosiddetti veicoli off-road, ovvero i veicoli industriali e agricoli, che risultano ancora un parco molto vecchio e quindi con grossi contributi diciamo emissivi. E infine c'è ancora da fare sul settore del riscaldamento domestico attraverso un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Così come in agricoltura è possibile introdurre pratiche agricole che con un utilizzo di fertilizzanti diversi. Manca un passaggio in tutte le cose che ha detto. Mi dica. Mi viene da dire da cittadina, no? Come lei lavora all'interno dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e però non si fa riferimento al blocco delle auto, all'utilizzo di alternative. Io le stavo dicendo quali sono le misure ulteriori oltre a quelle che ordinarie. Cioè, noi abbiamo uno, disincentivare il trasporto privato utilizzando il trasporto pubblico e promuovendo la diffusione di sistemi di trasporto collettivi. Lei sa che per esempio da tempo è stata introdotta anche questa figura del mobility manager nelle aziende, certo. negli enti, è una pratica che non ha preso molto piede, ma su questo si sta spingendo. Era stato anche istituito un tavolo proprio per la mobilità sostenibile presso il Ministero dell'Ambiente. Sono stati anche previsti dei finanziamenti non indifferenti, cioè, certamente non sono enormi, ma erano finanziamenti dell'ordine dei 300 milioni di euro per proprio incentivare una mobilità sostenibile. C'è ancora, come dicevo prima, il rinnovo del parco veicolare, che è certamente è una misura che sta dando dei risultati e non c'è dubbio che in termini di emissioni dei risultati si sono ottenuti, perché se noi andiamo a fare un esame su un arco temporale anche abbastanza importante, noi abbiamo presentato una serie di dati anche in questo studio fatto insieme all'Enea per verificare quali erano gli ulteriori interventi che si potevano fare. Noi abbiamo una serie storica di emissioni di precursori e di primari del PM10 che ci mostrano un andamento sicuramente decrescente. Dal 90 complessivamente noi siamo passati da una emissione totale di PM10 dell'ordine di 230.000 tonnellate a un valore dell'ordine di 160.000, quindi effettivamente si vede anche un andamento abbastanza interessante, perché in questa serie storica per i primi 6-7 anni abbiamo una situazione quasi stabile e poi da un certo punto in poi c'è una discesa costante delle emissioni. Dunque, come avete sentito, la figura che tanto si era pubblicizzata del mobility manager in Italia non funziona. Ma perché? Ce lo siamo fatti spiegare da Lorenzo Bertuccio, che è direttore scientifico di Euromobility, che è l'associazione che in Italia è un po' il punto di riferimento dei mobility manager. Brescia, Parma, inizia ad esserci anche a Torino, ma in maniera molto molto significativa e concreta. Dove ci credono le amministrazioni comunali, le aziende sono coinvolte, lavorano molto ma molto bene. Dei mobility manager di Parma erano in 24 mobility manager su 30, ma 24 operativi proprio. Ce ne fossero, pensiamo al rapporto di abitanti Roma-Parma, è come se a Roma ce ne dovessimo avere almeno 500-600 operativi, roba che in realtà ce ne abbiamo siano 10. Nel senso, se l'amministrazione ci crede, quello che noi chiamiamo il mobility manager di area, se lavora, coinvolge, finanzia, aiuta tecnicamente a redigere i piani, i mobility manager lavorano stupendamente e le imprese rispondono bene. Non c'è anche le aziende private, nelle realtà, io quando le parlo dei 24 mobility manager di Parma o di quelli di Brescia o di quelli di Torino, sono aziende private, sollecitate, coinvolte dall'amministrazione comunale, rispondono positivamente e lavorano alacremente. E Milano? Milano ci ha avuto un po' di passaggi negli anni precedenti non esaltanti, dovuto al fatto che hanno realizzato due diversi uffici di area, uno del comune e uno provinciale, che non si parlavano granché. Al comune c'è stata una forte alternanza di competenze, i mobility manager cambiavano ogni anno, quello di area dico a livello comunale. Stessa cosa che è avvenuta a Roma. Quanto può incidere una figura così, la figura di un mobility manager nella gestione del traffico? Cioè, ci dia il senso di quello che ci stiamo perdendo, non mettendo in pratica, non facendo lavorare persone che potrebbero decongestionare anche, magari non totalmente, però in parte il traffico? In parte, brava, ha detto in parte, perché nel settore della mobilità è l'insieme delle misure che possono dare risultati apprezzabili. Abbiamo, come dire, le esperienze concrete di mobility manager che riescono a ridurre l'uso dell'automobile fra il 5 e il 10%, qualcuno anche di più, ma diamo una percentuale che sia ragionevole e verosimile. Questo funge poi da volano e anche a livello di città, il dipendente che la mattina non va più in automobile ma va in bicicletta, il pomeriggio andrà in bicicletta anche in palestra, quindi c'è una riduzione praticamente di questi punti percentuali sulle aziende dove si opera. Per capire un po', perché un'azienda, un privato dovrebbe pagare una persona, un manager, un mobility manager in questo caso, per risolvergli un problema che magari un imprenditore non sente suo? Innanzitutto rientra nell'ambito della responsabilità sociale dell'impresa, come dire, avere un'attenzione per le risorse umane. Le motivazioni sono differenti, oltre questa, avere dipendenti più soddisfatti e meno stressati aiuta la produttività, quindi ci sono dei risparmi notevoli anche sui costi che l'azienda sopporta, ad esempio per la gestione degli spazi di parcheggio. Respiro. Bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Se le città sono congestionate dal traffico, anche quando si parla di rifiuti non si scherza. Il lato positivo è che la crisi ha abbassato la produzione di rifiuti e che una sempre maggiore consapevolezza ha fatto crescere la raccolta differenziata. Tra tutte, quello che sta andando meglio è la raccolta di carta e cartone, così ci ha raccontato Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco. Sentite. Va segnalato un dato assolutamente in controtendenza rispetto alla gelata che ha attraversato tutto l'Occidente per quanto riguarda la situazione economica. E cioè, mentre abbiamo registrato un crollo dei consumi, nel caso specifico per quanto riguarda gli imballaggi in carta e cartone, nei primi sei mesi dell'anno un meno 24%, la raccolta differenziata di carta e cartone invece è cresciuta. E posso dirvi che il dato, per esempio, che abbiamo ad oggi, quindi compreso il mese di settembre, quindi nove mesi, ci porta a quasi un più 10%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante il calo dei consumi, però ha tenuto e non solo, si è sviluppato ulteriormente l'abitudine degli italiani a raccogliere carta e cartone. Un dato importante è il sud, dove ha due cifre la raccolta, siamo nei primi nove mesi dell'anno intorno al 16%, anche se, ed ecco qui la differenza, si mantengono ancora le distanze tra ciò che si raccoglie al nord, al centro e nel meridione. Per darvi un'idea, mentre nord e centro viaggiano con tassi di raccolta superiori ai 50 kg per abitante, il sud a malapena supera i 20 kg per abitante. All'interno naturalmente di queste macro regioni poi vi sono delle differenziazioni tra aree e aree, però sostanzialmente il dato di fatto è che ormai il nord e direi ormai anche il centro è sicuramente allineato a livelli nord europei. Ecco, Comieco dà un po' anche attraverso questi dati il polso di quella che è la crisi. L'abbiamo già visto anche facendo altre interviste, sempre parlando di rifiuti, di raccolta differenziata. Poi guardando nel cestino dei rifiuti, diciamo così brutalmente, si capisce quanto si spende e quanta crisi c'è nelle famiglie italiane. Lei dice comunque, nonostante la crisi, il dato positivo è che è entrata nella testa degli italiani, almeno per quanto riguarda la carta, la differenziata. Esatto. Ecco, cosa significa differenziare? Cioè, spieghi a chi magari ancora non ha capito qual è il valore reale di mettere da parte la carta, mettere da un'altra parte la plastica, il valore reale di un gesto del genere. È un valore straordinariamente importante, un gesto così semplice come appunto lo descriveva lei prima, cioè quello di mettere da parte i quotidiani, le riviste, naturalmente togliendo tutti i materiali impropri, per esempio il cellophane o gli astucci e le scatole. Beh, tutto questo per quanto riguarda il nostro paese ha permesso di evitare nell'arco di 10 anni quasi 200 discariche, cioè sono state talmente tante le tonnellate raccolte con la differenziata che abbiamo evitato di dover fare degli enormi crateri e dentro questi crateri metterci dei rifiuti, ed è il primo punto. Il secondo punto è che in questo modo abbiamo evitato la produzione di CO2, almeno stiamo parlando per diversi milioni di tonnellate, proprio perché il riciclo da questo punto di vista è un straordinario fattore che aiuta la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. E infine, ma è un elemento per l'industria importantissimo, e cioè quello che abbiamo sostanzialmente sostituito la dipendenza dall'estero, cioè le importazioni di macero, che erano circa 1 milione di tonnellate 10 anni fa, non solo le abbiamo eliminate, ma siamo diventati da circa 2 anni paesi esportatori di macero, soprattutto verso la Cina. Ecco, mi sembra di capire, guardando i dati che voi avete pubblicato, ci avete inviato e confrontandoli con altri, ovviamente è un confronto fatto così in maniera abbastanza profana, però con altri rifiuti riciclabili, che la carta in realtà vada un po' meglio degli altri. Sì, da un certo punto di vista la carta sta dando, sotto il profilo della raccolta differenziata e quindi poi della sua valorizzazione, dei risultati estremamente significativi. Va anche detto che rappresenta all'interno del sistema CONAI la quota più importante in termini di quantità. Siamo con il riciclo ormai sopra il 76%, quindi ampiamente sopra gli obiettivi della Comunità Europea, e all'interno del sistema CONAI solo gli imballaggi in carta e cartone, pur essendo il 37% come immesso al consumo, rappresentano nella raccolta e nel riciclo quasi il 50%. E questo perché, secondo lei? Ma intanto perché vi è una maggior, direi, facilità da parte del cittadino consumatore nel utilizzare l'imballaggio in cartone o il quotidiano e poi consegnarlo, conferirlo alla raccolta differenziata. È un'operazione molto più semplice. Vi è un'attitudine, una tradizione che in questo caso, una volta che i servizi delle amministrazioni comunali sono efficienti, sta dando risultati importanti. Il cittadino ha bisogno solo di avere la garanzia che la sua attività, il suo conferimento corrisponda poi a un servizio di raccolta, di presa in carico dell'amministrazione comunale. Laddove questo c'è e ormai è piuttosto diffuso in tutto il paese, le tenga conto che come Comieco noi copriamo circa l'80% degli italiani, quindi stiamo parlando di cifre importanti. Molti di voi sapranno cos'è il FAI, il Fondo per l'Ambiente, un'organizzazione che nel corso di questi anni, almeno io, ho sempre sentito come molto moderata e mi ha sorpreso proprio qualche giorno fa ricevere un comunicato stampa che quindi è stato inviato a molti altri giornalisti, all'interno del quale si sentiva un tono provocatorio e a tratti anche quasi disilluso. Il senso del messaggio era questo: tutti gli italiani a parole sono paladini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, ma poi concretamente non fanno molto per difenderlo. Allora siamo andati a intervistare Marco Magnifico, che è l'amministratore delegato culturale del FAI. Noi ci siamo un pochino delusi, un pochino indispettiti anche forse, quindi lei ha colto giustamente un po' di polemica, nel senso che a parole cioè non c'è nessun italiano al quale si domanda: scusa, a te piace il paesaggio italiano? E dice no, mi fa schifo, perché allora vuol dire che è cretino e quindi non ci interessa. E tutti rispondono: sì, certo, il paesaggio, le montagne, le colate laviche, le pianure. Poi però ognuno, ecco, cerca di portare a casa, se appena appena il suo pezzettino di terreno da agricolo può diventare edificabile, è tutto contento. Insomma, ecco, non c'è questo senso della sacralità del paesaggio e della terra. E vede, un monumento che crolla, si può restaurare. Un pezzo di paesaggio rovinato è rovinato per sempre, a meno che si demoliscano i manufatti, ma lei capisce che diventa molto difficile. Abbiamo visto noi sì l'abbattimento del mostro del Fuenti, ma quanti poi abbattimenti abbiamo visto con i nostri occhi? Pochissimi. Ecco, quindi manca la sensibilità del fatto che il paesaggio è un bene irriproducibile e estinguibile, velocemente estinguibile. Noi in Italia abbiamo consumato negli ultimi 10 anni territorio vergine pari a tutta la Val d'Aosta, cioè come se la Val d'Aosta fosse tutta sparita sotto il cemento. Andiamo avanti così, allora la riscossa è questa. Abbiamo detto: italiani, ma voi ci credete? Per davvero? E allora cosa avete pensato di fare? Siete partiti da un progetto? Ma ecco, guardi, siamo partiti sì da Assisi, perché ci hanno regalato, lei sa che voi sapete che il FAI è una fondazione che riceve in donazione dei monumenti, dei pezzi di paesaggio, eccetera, li restaura e li apre al pubblico, quindi un'attività profondamente sociale. Ci hanno regalato 60 ettari di bosco, di un bosco intatto ma abbandonato, proprio di fianco al Sacro Convento di Assisi, quindi è bosco, oliveti con tutti i muretti che crollano, oliveti che non sono più stati potati, quindi non rendono più, coltivi abbandonati, un torrente che passa in mezzo, ma tutta la flora torrentizia se la sono mangiata i rovi, eccetera, eccetera. Però è intatto, cioè non ci sono porcherie che lo deturpano. E abbiamo detto, beh, insomma, Assisi, San Francesco, il miglior rapporto possibile fra uomo e creato, perché Francesco non si impone, si sentiva parte del creato, non si sentiva padrone del creato, è una bella differenza, ecco. E quindi abbiamo detto, proviamo a lanciare da Assisi la riscossa del paesaggio italiano. Però, abbiamo detto, italiani, se ci credete, non ditecelo solo a parole, ditecelo con un SMS, 2 euro, è una stupidata, però se tu mi mandi 2 euro, facendo 48, 5, 48 sul tuo telefonino, beh, insomma, è un momento in cui tu dai fisicità al tuo pensiero, al tuo credere che il paesaggio sia un valore fondamentale per l'identità italiana. È tutto per questa settimana, io vi ricordo sempre l'appuntamento con Respiro il sabato alle 16.30 più o meno, domenica alle 14, potete ascoltarci sempre andando sulla pagina di Radio 24, poi cercate quella che ci riguarda, quindi quella di Respiro, oppure scriveteci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.